Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Avere rapporti anali, sentirsi donna in un corpo di uomo, omosessualità. Omosessualità. Ligolare con altri maschi, fare puttano. Omosessualità. Omosessualità. Ha usato parole razziste. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inveire contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Si deve vergognare, 60 anni. Rapace. Omosessualità, cosa ci vuoi fare? Cioè, questo episodio è troppo importante e cancella tutto? Sì, cancella tutto, sì, perché una persona di 60 anni che si comporta così è veramente una vergogna. Perché si può anche litigare in panchina, si può non essere d'accordo. Lui è una vergogna, lui è una vergogna. Vacanze in Tokyo, vacanze in Marocco, vacanze in Grecia, omosessualità. Ma questo è palese, evidente, di poter dire qualsiasi termine e non c'è nessun tipo di discriminazione. Mi sfugge questo termine, ma è che le scuse siano agli omosessuali se il termine è usato, quello è palese, cioè io non ho nessun tipo di remora sotto questo punto di vista. E dunque, l'allenatore più ammirato d'Italia, quello in tuta, quello rivoluzionario, quello di sinistra, se vogliamo forzare un po' i termini della questione, in un martedì di Coppa scivola sulla prima grande buccia di banana della sua carriera. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benino. Non benissimo, benino. Che è successo dopo ieri? Hanno giocato Coppa Italia? Ho giocato Coppa Italia, l'Inter ha vinto 2-0, Jovetic e Ljajic, passa il turno, poi... E stasera Lazio-Juve, eh? Stasera Lazio. 800-24-0024, il numero verde per intervenire. Il tema dei temi, il calcio che si contamina per l'ennesima volta con aspetti ben più importanti, insomma ben più rilevanti, anche se poi il calcio è importante. Sarri ha sbagliato, corre il rischio, non tanto da squalifica, perché si parlava di 4 mesi, mentre adesso, guardando meglio la possibilità di 4 mesi di squalifica, guardando meglio i regolamenti, rischierebbe 1-2 giornate tra le pieghe regolamentari, ma non è questo il tema. Il tema è che, insomma, ieri sera ha certamente sbagliato. Non si può parlare di razzismo come ha fatto Mancini, semmai di omofobia, per usare termini corretti, visto che la terminologia è importante. A questo punto è sotto pressione. Forse non è stato in grado di reggere la pressione, forse gli è partita la brocca proprio a causa della pressione. Ha fatto una gran cazzata. Una gran cazzata, eh? Sì, cioè, giusto per estrema sintesi. Sì, sì, anche alta come sintesi. E una gran cazzata, fra l'altro, inaccettabile, soprattutto per il ruolo che riveste, per l'esperienza che dovrebbe avere. Quindi ha commesso un errore gravissimo, sul quale io penso che non sia il primo, spero sia l'ultimo, ma non è il primo certamente a dire cose irriguardose. E poi ovviamente il fatto che si stia parlando di un determinato aspetto, che è quello dell'omosessualità, per il quale tante persone nel mondo sono state torturate e ancora oggi purtroppo sono discriminate nel mondo, rende tutto questo assolutamente ancora più delicato, no? Perché non gli ha detto stronzo, non gli ha detto brutto stronzo, gli ha detto una cosa lì, per la quale sappiamo che tantissime persone nel mondo sono state in passato addirittura torturate, e ancora oggi anche in paesi civili e diciamo democratici vengono discriminate. Quindi insomma, la sostanza della questione è indiscutibile. Certo, non penso che sia stato il primo nella storia del calcio a dire questa cosa, e invece è stata la prima volta che questa cosa viene portata alla luce in una maniera così forte e così profonda da parte di Mancini. Quindi da un lato sarà sicuramente un'occasione per poter riflettere e per poter avere ancora più attenzione, se possibile, al linguaggio, alle parole, a quello che si dice. Dall'altra è chiaro che la tempesta mediatica rischia di fargli veramente molto male. Io poi non credo che Sarri sia omofobo. così come certamente Cassano, dopo, visto che poi tanto prima o poi ci si sarebbe arrivati, conoscendolo, certamente non è omofobo, c'ha mille altri difetti, ma non è omofobo, ma in quella famosa conferenza stampa, e ancora oggi vedo adesso qua al Corriere.it che giustamente mette quella foto lì perché, perché si va a raccontare di tutte le volte in cui il calcio si è mescolato con l'intolleranza, e l'intolleranza è anche verbale, non è soltanto di sostanza, e questo aspetto qui del verbale è l'aspetto fondamentale, perché oggi siamo in una società dove una battuta sbagliata o un insulto sbagliato ti uccide. Ed è il caso di Sarri oggi, è il caso di Sarri, il caso di Tavecchio per svariate volte, quello era ancora più grave perché era un contesto ufficiale, ma era nel un discorso, pubblico la forma diventa sostanza, assolutamente. Poi c'è qualcuno che penserà, e magari poi lo sentiremo, che Mancini sia stato un furbacchione, cioè che abbia preso la palla al balzo, che abbia catturato al balzo la cazzata, come dici tu, di Sarri, perché di questo si tratta, per recitare una scena che può convenire comunque all'Inter cinicamente nel corso scudetto, che comunque può danneggiare una diretta concorrente. Sicuramente, adesso qui con De Luca stavamo facendo il punto della situazione, dice o si ricompatteranno come successe col famoso caso Alemão, oppure più probabilmente ci potranno essere delle conseguenze negative, anche se poi sai il calcio è meraviglioso perché è veloce e quindi spazza via tutto dal punto di vista strettamente tecnico, quindi strettamente del risultato. C'è Samp Napoli domenica, se il Napoli fa una bella partita e vince, la squadra si ricompatta e non starà certamente a pensare a queste cose. Dal punto di vista dell'immagine di Sarri, che oltretutto è un'immagine, Sarri è un outsider, l'abbiamo detto mille volte, sta facendo cose eccezionali, è un signore appunto di 60 anni che si mette la tuta, che ha scelto la sostanza più della forma, che non ha cambiato certe sue abitudini, che è abbastanza digiuno di un certo tipo di calcio con le grandissime squadre, sta facendo molto bene dal punto di vista tecnico, sta facendo benissimo. Questa è una macchia che secondo me pesa di più rispetto ad altri allenatori più strutturati, ad altri allenatori che stanno lì da 20 anni, e quindi è un problema grosso secondo me per lui. Sì, è anche un problema l'incapacità di cogliere, di distinguere, no? Perché io sto leggendo un miliardo di messaggi, tra poco parliamo con gli ascoltatori, che dicono che minchiata se avesse detto figlio di, testa di, tua sorella eccetera, porco qui e porco là, andava tutto bene. Se uno dice ciccione è grassofobia, scrive Pieretto, oppure se gli avesse dato del cane gli animalisti sarebbero insorti, oppure Sarri ha sbagliato e ha chiesto scusa, Mancini invece strumentalizza a suo vantaggio, sto con Sarri e sono mancinofobo, eccetera eccetera eccetera. Traffico, tutti convocati. Tutti convocati. Che è l'amore? C'è il tuo trottolino amoroso. Wow, sì? Mi scusi, camera. Mi scusi, ho sbagliato camera. Oh, peccato. È peccato, sì. Io sto a cercare mia moglie, che è un pezzo di figa, invece ho trovato te, che sei un froscio che baffi. Antonio Monza, buongiorno. No, volevo salutare tutti innanzitutto, volevo solo dire questo brevemente, che con tutta questa diatriba, il gol, il bellissimo gol di Jovetic da 9-9-18, penso 20-25 metri, è passato inosservato. Ora, se l'avesse fatto la Juve e il Milan, parlavamo di un euro gol. L'ha fatto Jovetic, va bene, però ha fatto un grandissimo gol, l'Inter ha vinto meritatamente e Mancini aveva assolutamente ragione a reclamare con i dovuti modi, perché è un signore, perché i 5 minuti di recupero non li ha visti nessuno, non solo, quando il quarto uomo ha messo la tabella, addirittura ha messo 9 minuti, allora 9 più 5 davamo mezz'ora, così il Napoli poteva recuperare, cioè voglio dire, aveva ragione Mancini. Poi il resto io non entro nel merito, perché veramente sono questioni da bar, però Mancini ha assolutamente ragione. No, a me le questioni da bar sembrano le prime, cioè possiamo discutere il bellissimo gol di Jovetic, gol di Jaic, eccetera eccetera, i 5 minuti di recupero, le proteste di Mancini. Questa mi sembra la parte più baristica, sì, più baristica della questione. L'altra invece mi sembra un po' più delicata, ma anche perché siamo di fronte a un tipo di accusa e anche ad una denuncia che non credo abbia precedenti, no? Sì. al grande pubblico non gliene frega una fava di questa storia, ci scrive uno. Io non ho nessuna simpatia per Mancini, Massardi, Cassano e Tavecchio, sono semplicemente persone squallide e ignoranti, sciatte nell'aspetto come nel modo di esprimersi. Sulla pagina web del Sole 24 Ore si fa presente che Sarri è recidivo su questo argomento. C'è anche da dire che è stata tirata fuori anche una situazione quando Mancini aveva, diciamo, derubricato uno striscione, sì, della curva dell'Inter di discriminazione territoriale per uno sfottò, quindi è stata poi tirata fuori anche mi chiedono anche come è stato farsi allenare da Zenga, poi vi racconto. Io ho avuto una bella telefonata molto divertente con Walter Zenga direttamente da Dubai, e quindi insomma dopo vi dici grande simpatia, no, ma che qui ma lei... Poi c'è anche è stata tirata fuori anche quell'episodio Mancini, vice allenatore della Lazio, Mihajlovic, che insulta pesantemente negro pezzo di qualcosa Vieira, e Mancini dice sono cose che devono rimanere in campo. Sono passati circa 9 anni, quello era chiaramente un insulto di stampo razzista. Ci sono anche quelli ci sta anche il fatto di crescere umanamente, di neanche a farla apposta. Avete letto messaggi contro Mancini? Ho letto messaggio contro Sarri, di uno che dice che Sarri da vecchio che Sarri, ma io veramente. Mentre invece ci sono anche i messaggi contro Mancini, c'è chi ci scrive gravissimo comportamento, quello che succede in campo deve finire lì, invece il Mancio va a parlarne davanti alle telecamere, vergogna. Adesso vergogna mi sembra francamente eccessivo. Sicuramente ha sfruttato, io credo istintivamente, io non ci vedo la malafede, non ci vedo il dolo. Anche se chiaramente Mancini è un allenatore molto esperto, e quindi si può anche pensare, sì, molto esperto anche mediaticamente, quindi si può anche pensare. Però io credo che veramente lui sia rimasto molto offeso dalla cosa e abbia voluto reagire in forma istintiva. Quindi non ci vedo la malafede da parte di Mancini. Gennaro Monza, la pensa così anche lei? Sì, buongiorno, grazie. Sì, la penso così, che Sarri comunque si è scusato, Mancini ha esagerato e ha preso la palla in balzo. Diciamo che lui adesso ha scaricato un po' su di sé tutte, diciamo, la non brillante primo girone di andata dell'Inter. Beh, anche se per il momento brillante, e ieri sera ha fatto una grande partita. Sì, veramente. Comunque io voglio dire questo, perdonatemi, solo questo, poi vi ascolto. Però comunque la società deve fare scudo su Sarri. Sarri ha sbagliato, ha chiesto scudo, è un maestro perché ha chiesto scusa, va bene? Vi ringrazio, vi ascolto. Però sembra minimo sindacale, non c'è dubbio che debbano fare. Io voglio sapere se la pensano così anche Raffaele Auriemma e Giampiero Timossi, che sono in linea. Buongiorno a entrambi. Raffaele, che cosa vuoi che ti dica? No, il tuo pensiero su questa questione. Nulla oggi c'era un tweet di Auriemma particolarmente forte, nel quale diceva che insomma non c'entra l'omofobia, ma c'entra invece il discorso dello scudetto. Cioè, tu ci vedi una manovra, Raffaele? Beh sì, perché se Mancini è talmente scosso dalle parole di Sarri dette in un contesto strettamente calcistico, dove presumo, ma può darsi pure che mi sbagli, Mancini ne abbia sentite e dette anche lui di peggiori, poi dopo non è che vai nello spogliatoio del Napoli a farti giustizia e a provare ad aggredire Sarri offendendo. Te ne stai zitto, buono, e vai anche davanti alle telecamere. Non è che fai questo prima. Poi dopo, se vai davanti alle telecamere e ti senti talmente scosso da non riuscire a parlare neanche di una partita nella quale nel primo tempo hai fatto tiri in porta zero, allora, scusami, ma io un poco di malizia ce la vedo in questo atteggiamento di Mancini, ma ha fatto anche bene, perché se c'è qualcosa che non funziona a livello sportivo e non sai come giustificarlo, devi trovare altri sistemi. Però Raffaele ha vinto ieri Mancini, eh? Ieri ha vinto, cioè, Mancini. C'è pure questo aspetto, Raffaele va detto. Cioè, questo contro le riserve del Napoli, sì, certo. Però ha vinto fuori casa 2-0 al San Paolo, e non so in quanti l'avrebbero mangiato. Ecco. No, io ti dico che fra gli aspetti collaterali di questa vicenda qui c'è il fatto che si è parlato, come diceva prima l'ascoltatore, pochissimo della vittoria dell'Inter. Quindi in questo sicuramente Mancini nella sua denuncia finisce per fare un danno al Napoli, non c'è dubbio, un danno d'immagine a Sarri denunciando quello che è successo, sicuramente gli scava una fossa mediatica enorme. Però è anche vero che questo succede certamente non per nascondere qualcosa di tecnico, perché anzi questa cosa ha finito per nascondere partita che ha fatto la sua Inter. Fammi sentire Raffaele, fammi sentire invece il pensiero di Giampiero Timossi, che Non riesco a seguirvi, non riesco a seguire neanche Raffaele su questo campo. Sono riuscito a seguire ieri sera, scusami Giampiero, quindi non ho capito Raffaele, scusami. Neanche io sono riuscito a seguire sì, ma ci mancherebbe altro, con il tribunale dell'inquisizione ma ci mancherebbe altro, no. No, no, ma non è nessun tribunale di inquisizione, non faccio processi alle intenzioni. A me di Sarri interessa anche relativamente, guarda, non sto qui a giudicare Sarri. Gli ho fatto le domande, gli ho chiesto se aveva offeso in quel modo Mancini, lui ha risposto molto gentilmente, anche con evidente imbarazzo, sì. E quindi voglio dire, una frase che Sarri aveva già detto nel 2014 in conferenza stampa alla fine di Empoli-Varese, ha detto che il calcio ormai era diventato uno sport da froci, e quindi evidentemente questo è il suo pensiero. Io credo che sia una frase detta con assoluta civiltà da Mancini. Credo che abbia espresso quello che è il suo pensiero. Credo che l'abbia fatto in un contesto particolare, dopo aver vinto una partita della quale a me, francamente, probabilmente a Mancini interessava veramente poco. Trovo che la cosa grave non siano gli insulti che ci possono stare, ma credo che sia grave pensare che essere omosessuale e dire a qualcuno che è omosessuale sia un insulto, perché l'omosessualità non è una vergogna, non è una malattia, è una condizione, quindi non vedo assolutamente nulla di particolare. Trovo grave da parte di Sarri una cosa in particolare, che abbia detto che si sia scusato formalmente, ma che in effetti non si sia scusato, perché ha ripetuto. Queste sono cose che in campo succedono sempre, ma in campo non devono succedere queste cose. Poi ha aggiunto, queste sono cose che devono rimanere in campo, e questo significa essere omertosi. Io credo che Mancini abbia fatto invece una grande denuncia di civiltà, non solo sportiva, ma di civiltà in senso generale, penso che questa cosa possa, le sue parole debbano far bene, debbano farci riflettere non solo al calcio, ma all'intero paese, dove purtroppo l'omofobia è una condizione, è un qualcosa con la quale dobbiamo combattere tutti i giorni. Mi dispiace aver ascoltato le parole di Sarri, che diceva sono cose che devono rimanere in campo, e mi dispiace aver sentito poco dopo il portiere del Napoli Reina dire sono cose che devono rimanere in campo. Si vede che la linea dettata era questa. Mi sembra che invece in questo momento stiano accadendo cose molto positive da parte di alcuni allenatori. Non posso far altro che applaudire le parole di, visto che sennò sembra che la mia sia una posizione contro una città che io amo moltissimo, che è Napoli. Non posso far altro che applaudire le parole di Gasperini, dette al termine della partita del Genoa, quando ha denunciato, anche qui stappando un altro velo di omertà, quanto accade spesso negli stadi, che purtroppo non si riesce e non viene sempre denunciato da noi, dagli addetti ai lavori, dagli allenatori. Devo dire che trovo assolutamente fantastiche le parole e l'orgoglio mostrato ieri da Mancini. Io credo che non c'entri niente, credo che non c'entri niente la partita, che tra l'altro bella partita allo sfondo, la partita però, sullo sfondo. Raffaele, davvero io ho grande stima rispetto alla tua posizione, non ti seguivo nel senso che non condivido, scusami, la tua opinione, credo che questo sia legittimo. Poi se tu pensi che ieri sera ci sia stata durante il colonnellamento alla Rai una tribunale dell'inquisizione, è una tua opinione, io non te la posso far cambiare, non è questa la, ma non è questo il punto. Raffaele, chiudi tu. No, volevo aggiungere un ultimo particolare. Benissimo, se Mancini ha deciso su Aspontere di rompere un codice che c'è nel calcio, no? Codice d'onore, chiamatelo come volete, che è quello che accade in campo. No, vorrei parlare, tu chiamala come vuoi, è un codice d'onore che se parli con quelli del calcio, presumo che tu lo faccia ogni tanto, esiste, si chiude tutto al 90esimo. Però se Mancini ha deciso di fare il paladino ora che la cosa riguarda lui da vicino e non quando riguardava altri della sua stessa squadra, benissimo, io chiederò, o farò chiedere al Napoli, di far mettere un collarino col microfono a tutti i calciatori in campo, così il campionato fra 2-3 settimane finirà, perché non ci saranno più calciatori da utilizzare, viste le numerose squalifiche che arriveranno. Chi non ha giocato al calcio non può sapere che in campo se ne dicono di ogni colore. Parlate con ognuno dei calciatori e fatevi dire se è così, altrimenti parliamo del nulla, facciamo moralismo di bassa lega, è solo moralismo e basta. Sarri non ha voluto offendere gli omofobi, lo avrebbe fatto se avesse detto odio te e tutti i froci come te. No, quella è stata un'offesa, come può esserla figlio di o pezzo di. È stata un'offesa generica che gli è scappata, ha sbagliato, sottolineo, ha sbagliato, ma lo comprendo perché l'adrenalina ti porta a questo, purché finito il novantesimo ci si stringa la mano e si chieda scusa, perché Sarri non è l'unico a dire queste cose, le dicono tutti, Mancini incluso. Va bene. Ma magari io non credo che Mancini le abbia dette. Se tu riesci a dimostrare che Mancini o Sarri, ma neanche tu puoi dimostrare il contrario, no. Magari ce lo facciamo dire dal compagno di squadra, Mancini prova contraria, voglio dire, no, ma questo è il punto. Se Mancini dice una frase del genere, Mancini sicuramente sbaglia. Dopodiché dire stronzo un avversario non è la stessa cosa. Ti dicono anche cose peggiori, tu lo capisci chiaramente, no? Tu lo capisci evidentemente, perché voglio dire, considerare, ti ripeto, l'omosessualità un'offesa è una cosa diversa. Ma è Mancini che l'avrà presa come un'offesa. Per Sarri, no? Beh, è allora... un'offesa come può esserla. Stronzo figlio di non è pensabile che sia così, cioè non possiamo paragonare due cose, sono profondamente diverse. Ripartiamo a 35. Ripartiamo a Auriemma e Timossi, rimanete 35, lì, ci sono le notizie delle borse oggi, fra l'altro straordinarie, le borse regalano enormi soddisfazioni, proprio meno 3%, però magari qualcosa è cambiato in questa mezz'ora. Se avete tempo, rimanete, ragazzi, borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Infatti, becco, dovete domandare a Sarri, che è un razzista e gli uomini come lui non possono stare nel calcio. Bravo, Robè. Robè. Ha usato parole razzista. Io mi sono alzato solo per chiedere al quarto uomo per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inveire contro di me, poi a un certo punto urlando dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. No, scusa, non ho capito. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Vabbè, sentami, Robè, qua non c'è nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè, tu devi uscire, ti devi salvare, Robè. Una persona di 60 anni che si comporta così è veramente una vergogna, perché si può anche litigare in panchina, si può non essere d'accordo, lui è una vergogna. Vabbè, sentami, tu devi uscire da qua dentro, tu te ne fai a che fammi a strada, tu che femmina, va a rubare, fai che rubo tu. Va bene, in spogliatoio sono andato a cercarlo, lui ha detto, ti chiedo scusa, mi devi chiedere scusa, ti devi vergognare. Perché uno che pronuncia quelle parole, in Inghilterra non avrebbe più neanche messo in campo in un campo d'allenamento. Quindi io non parlo della partita. Sono bambino! Fanculo tu, mammi! Sarri e Troisi, cioè, Mancini e Troisi, questi. Beh, l'ironia è sempre una bella arma. Oggi, fra l'altro, lo diciamo, gira questa foto su vari social, che credo che sia stata anche messa con un ortaggio particolare, il finocchio. Credo è vera questa foto, è un fake, è vera a Napoli con 5 mancini, euro, 5 euro. Mancini, 2 euro. Vabbè, insomma, 2. Questa ovviamente, no, ovviamente noi approfittiamo ancora 5 minuti di Giampiero Timossi e Raffaele Auriemma, che sono rimasti con noi, perché io a Giampiero volevo chiedere una cosa, per essere voglio provare ad essere cinico. Giampiero, condivido la tua posizione, ma non hai mai avuto nemmeno mezza sensazione che comunque Mancini, insomma, abbia utilizzato, e questa è una parolaccia, questa situazione, anche per destabilizzare un avversario diretto? No. Non ho mai avuto, ma lui, io non ho né conoscenza, mi capita di parlare spesso, visto che tanti anni che faccio questo lavoro con allenatori e giocatori, ma non ho neanche una particolare conoscenza di Mancini. Devo dire la verità, ho una particolare simpatia, avevo, per Mazzarri, credo che sia un ottimo allenatore. Credo che abbia sbagliato ieri, credo che abbia sbagliato due volte quando ha cercato alla fine di dire che queste erano cose che si possono dire ma non si devono raccontare in giro, tutto lì. Se Sarri fosse arrivato ai microfoni da noi in studio dicendo scusate ho sbagliato, fine. Cioè, ma non è Sarri che mi il punto di la notizia di quanto accaduto ieri sera. Lui avrà modo di riflettere, se la pensa così. Io la penso in maniera diversa, trovo che sia, non sia civile pensarla in questo modo. Io credo che sia importante le parole, il gesto e di Mancini. Trovo che sia stato fatto con grande spontaneità, ma è una mia opinione. Sì, sì, no, sulla spontaneità sono d'accordissimo. Sulla spontaneità io non, francamente faccio proprio fatica a immaginare un complotto di uno che si mette lì e in quei 5 minuti con l'addetto stampa dell'Inter partorisce questa roba perché capisce che mediaticamente gli può essere utile. Faccio, no, ma tutti noi lavoriamo in televisione, faccio molta, no? Fatica. Sappiamo, dico anche ieri sera magari ci sembrava stravagante il fatto che Mancini lasciasse, io invece l'ho capito, cioè, ho capito che non aveva voglia di parlare d'altro. Io sono orgoglioso di essere così. Ecco, c'è una sfumatura perché non bisogna, anche lui a un certo punto, poi forse fino alla rabbia, dice se Sarri è un uomo, no? Perché poi purtroppo determinati ragionamenti portano anche a creare delle situazioni sbagliate. No, sì, sì, la rabbia, no, porta a dire cose sbagliate. Io non dico che ieri sera, per me, ma è un mio giudizio personalissimo, Mancini ha fatto una cosa importante per combattere degli atteggiamenti che purtroppo in Italia, su questo sono, su questo sono d'accordissimo. Penso, no, anche non, però non interessa Timo, Sarri, cioè, penso, non, anche che in generale, no, a me la cosa che fa paura in generale, e vale per mille questioni, vale per la famosa battuta di Sacchi, è che molto spesso mi sembra che in quest'epoca così veloce, in quest'epoca veramente di Twitter, di 140 caratteri, basti una battuta, una parola, ancorché sbagliatissima, lo ripeto, senza se e senza ma, per mettere una macchia, un'etichetta definitiva sulle persone. E questo mi spaventa nel momento nel quale diventa una superiorità della forma sulla sostanza dei comportamenti. Cioè, se Sarri fosse realmente una persona che ce l'ha con gli omosessuali, d'accordo, c'è quel discorso lì di quell'altra frase dopo Empoli Varese, una persona che ha delle idee tutt'altro che progressiste, ha delle idee omofobe, io sono, che sono il contrario, lo dico, sono progressista, sono assolutamente per la libertà di ognuno di fare quello che vuole, sono a favore delle unioni civili, lo dico proprio senza se e senza ma. Allora, se fosse questo il discorso, se allora uno lo accetta. L'idea che possa essere messa un'etichetta pressoché definitiva su una persona per una battuta completamente sbagliata, per un insulto completamente sbagliato, questo un po' paura me lo fa. Me lo fa perché mi dà l'idea che invece di risolvere il problema troviamo il capro espiatorio, gli mettiamo la croce sopra perché ha fatto questa stronzata mega galattica, perché ha offeso, e lo ripetiamo, e allora persone rimane macchiato non... e segnato per tutta la vita per come l'eternità. Uno che è così, quando poi magari in realtà ci sono altri che non dicono quella cosa e che pensano peggio di lui. Cioè Sarri, scusate, adesso qui andiamo nel campo delle valutazioni, mi risulta essere una persona tutt'altro che diciamo di idee di destra radicale, anzi mi, da quello che abbiamo capito mi sembra essere una delle poche o comunque relativamente poche persone del calcio che hanno idee progressiste. Quindi francamente, insomma, qualcosa non mi torna. Qualcosa non mi torna. Allora penso diciamo di più a un insulto, diciamo, tradizionale che rientra in quella. Anche prima sentivamo il film di Christian De Sica, no? In quel malaffare, in quel malcostume, che chiaramente non è giustificabile, perché poi qui ci chiedono: ma la differenza fra altri insulti? La differenza è questa: che purtroppo nel mondo i gay e le lesbiche sono stati spesso torturati e ancora oggi vengono discriminati. Quindi è esattamente lo stesso discorso che facciamo quando c'è il razzismo, quando andiamo a toccare dei pezzi di società che sono stati che hanno subito discriminazione forte, che hanno sofferto violenze, e allora diventa una cosa. Quindi diversa, è ovvio che non è come dire a pezzo di me, è ovvio che è un'altra cosa ed è una cosa inaccettabile. Vai sull'ultima battuta, però Raffaele paura Auriemma. L'etichetta l'ultima battuta Raffaele Auriemma, dimmi. Vabbè. Raffaele. E che devo dire? Mi volete chiedere qualcosa? Volevo aggiungere altro a quello che è stato già detto. No, mi pare che Pierluigi, con quest'ultima affermazione, abbia condensato il tutto. Vedo che Timossi insiste su questo tasto. Gli farà comodo, gli farà piacere. Non vuole andare oltre le scuse chieste da Sarri. È un problema suo. Però etichettare Sarri come un omofobo, un razzista, credo che se lo fa Mancini a caldo ci può stare, pur sbagliando. Se lo facciamo noi il giorno dopo, continuiamo a commettere un errore ulteriore. Per cui sono d'accordissimo. Mancini ha aperto una strada. Ora tutti gli episodi di razzismo, dal presidente D'Avecchio all'ultimo dei calciatori, dovranno essere puniti severamente. Aggiungo che il capitano del Napoli, Marek Hamsik, al prossimo coro di discriminazione territoriale dovrà abbandonare il campo perché lo prevede il regolamento. Quindi applichiamo il regolamento e finirà completamente il calcio. Grazie Gian Piero Timossi, no, grazie a Raffaello Riemma. Certo, un'ultima battuta. No, non puoi rispondere, no, perché io non ti ho risposto. Io non ho nessuna. Cioè, ho un interesse sacrosanto, credo. Ho quello che la sensibilità delle persone venga rispettata. Punto, solo qui. Credo che la sensibilità di Mancini non sia stata rispettata. No, io non ho nessun interesse, non lavoro a Napoli, quindi non ho nessun tipo di interesse di questo genere. Ma non voglio convincere nessuno. No, ma questo è verissimo. Tipo, io oggi leggevo un po' di commenti su Twitter, sui social. La cosa che veramente vi prego, poi a me magari riesce più facile, a chi è più coinvolto a favore di una squadra o di un'altra riesce più difficile. Non trasformiamo questa roba qui in una guerra fra Napoli e Inter. Questa è una questione di principio, dove da un lato c'è questo aspetto qui, cioè che oggi Mancini con la sua denuncia fa, secondo me, fare un passo ulteriormente in avanti verso una correttezza del linguaggio che è importante, perché troppe persone, e penso anche ai napoletani troppo spesso criticati e insultati in maniera becera, troppe persone hanno sofferto degli insulti che vengono fatti così, magari a cuor leggero senza rendersi conto. Quindi da questo punto di vista Mancini sicuramente ci fa fare un passo avanti. Dall'altra, quello assolutamente che, sì, ecco, dall'altra quello che sicuramente, quando Auriemma dice che allora a questo punto ogni discriminazione dovrà essere valutata allo stesso modo, introduce un tema. Cioè, io sono convinto che quel finocchio detto ieri non è né il primo, spero sia l'ultimo, ma non è certamente il primo. Quindi a questo punto facciamolo tutti insieme questo passo avanti, ma cerchiamo di non dividerci secondo la fede calcistica, perché perdiamo un'occasione. Ma assolutamente ragione Auriemma quando dice che bisogna sospendere la partita al primo coro razzista contro i tifosi del Napoli o di qualsiasi altra squadra. Io su questo sono pienamente d'accordo, nel senso, ma non ho davvero nessun tipo di problema a dire che è una cosa sacrosanta. L'ho detto, l'ho scritto, su tutti i giornali l'ho scritto, dalla Gazzetta a qualsiasi giornale. Sono d'accordissimo su questo con Auriemma. Non vedo che sia. Mi dispiace che ci si divida ancora su queste cose, però voglio dire, non voglio convincere nessuno, ci si divide sulla sostanza. Credo che nessuna persona per bene, decente e civile possa accettare un insulto nei confronti degli omosessuali, nei confronti delle persone di colore, nei confronti delle persone del sud, nei confronti delle persone del nord. Cioè, su questo penso e spero che tutte le persone per bene siano d'accordo, cioè sul fatto che ognuno è libero di vivere la propria sessualità come gli pare, senza che questo debba essere argomento di giudizio da parte degli altri. Credo che siamo tutti d'accordo. Si discute, secondo me, Timo, perché il calcio non è nato ieri pomeriggio alle 20:45. Il calcio da tanti anni esiste, e all'interno del calcio tante volte comportamenti, io credo, altrettanto gravi sono passati sotto silenzio. Ieri non è successo, e quindi da un lato c'è la logica di chi dice: oh, ma queste cose nel calcio sono sempre avvenute, e dall'altra c'è la logica di chi dice: il fatto che siano sempre avvenute è molto grave, e viva Mancini che ha sollevato il velo. Ci fermiamo. Cioè, è tutta qui la sostanza. Ci fermiamo, grazie Gian Piero Timossi e grazie Raffaello Auriemma sul serio, sono stati con noi a lungo. Assolutamente. Ci fermiamo per il 800 24 00 24, abbiamo messo già il record oggi telefonate, ma lo ricordiamo, 800 24 00 24. Ora come si fomentano dietro il vetro, no, parliamo di questo perché traffico. Veramente vai. Sì, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. 7 minuti scarsi, anzi 8 minuti scarsi alla fine di questa prima parte di e poi continuiamo. Leggiamo un po' di messaggi perché insomma, il tema appassiona. No, siete tutti ridicoli, grazie. Sì, ma non vi accorgete, sono tutte chiacchiere. Ci scrivono. De Laurentiis, per rimediare le parole di Sarri, è pronto a portare il Napoli a Mykonos per la preparazione estiva. Sì, questo è un cabarettista, Marco Sternieri, lo salutiamo. Premesso che Sarri sbaglia, ma abbiamo vinto un mondiale con Materazzi che insultò la sorella di Zidane con offese sessiste e maschiliste. Non ricordo processi, ci scrive Daniele, anche se in realtà sull'insulto non è che non è stata fatta la parola, cioè la certezza matematica di quello che ha detto non ce l'abbiamo. Scusassero, ma se non è un'offesa, perché uno dovrebbe offendersi? Detto questo, di punire ogni insulto e bestemmia in maniera durissima, ma tutte però. Poi c'è Luca che mi parla di MPS, sono solidale, ci mancherebbe altro, non c'è niente da festeggiare quando le borse vanno giù, anzi un abbraccio a tutti quelli che hanno dei titoli in questo momento sono in calo, però insomma arriviamoci sopra, che sennò andiamo ci suicidiamo tutti. E poi codice d'onore in campo a Napoli messo a punto da chi? Insomma, Poi c'è chi dice che questi interventi non ci meravigliamo di Tavecchio, zona franca, Rotti, Froce, squalificano Mihailovic per un calcio nella bottiglietta. C'è anche questo, c'è anche sono sicuramente questo. Ci sono anche queste ipocrisie. Io sono d'accordissimo. Ventura è stato cacciato dal campo a Napoli-Torino perché ha dato una botta sulla panchina. Quindi. Sì, però sono stati cacciati anche Sarri e Mancini ieri sera, lo ricordiamo anche qui per la cronaca. Però mi sembra un caso diverso rispetto a tutti gli altri per la tipologia e le modalità. Carlo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia è una considerazione che il calcio, per come è messo, avrebbe bisogno più che di persone brave, di brave persone. E io non dico che Sarri non lo sia, però nel calcio c'è bisogno soprattutto di esempi. Io mi ricordo in una delle prime partite giocate di giorno, alla domenica a mezzogiorno, ci fu un giocatore di una società per la quale lavoravo che si è permesso di sputare in faccia un avversario. Subito dopo la partita è stato preso dalla proprietà e la proprietà gli ha detto: caro signore, lei si ricordi che noi abbiamo 300 scuole calcio in Italia? Questo parlando di, questo parlando di esempi. Poi si discute se Sarri meriti di allenare qua in Italia o no. Io voglio dire una cosa, nei dilettanti per molto meno non si allena più, sì. E ricordiamoci comunque però, che Carlo, in Italia, sì, Carlo, se permettimi finisco un concetto, va bene. Abbiamo un esempio peggiore che allena in Serie A, abbiamo un esempio peggiore, cioè? Perché dopo un Lumezzane Cesena che ci sia ancora una persona come Castori che allena, dopo quell'esempio, non è la parola di Sarri che... Sì, va bene, allora, no, ma che io vorrei evitare è la caccia a questo è peggio di me, quello è peggio di lui, sì, ho visto cose peggiori parte. Di questo o migliori di questa, perché così non, insomma, secondo me è un modo sbagliato di approcciare il discorso. Ha invece ragione Pardo, almeno io condivido quando Pardo dice, per una cosa così adesso il pericolo è quello di marchiare a fuoco sono le mode e le etichette, sì. Questo è il pericolo, cioè io non so dire, ammesso che poi non devo essere io a decidere chi è più brava persona fra i due, chi è più progressista fra i due, che idee politiche hanno, politiche intendo in senso lato, cioè su questa questione qui. Allora, è molto facile quando uno fa una cazzata così, poi dire vabbè questo qui. Però esiste, può essere, esiste che una Sarri storia. Abbia sentito il senso della pressione del momento, non essendo abituato a queste quote. Può essere anche più banalmente, secondo me, che Sarri nel suo kit, diciamo, di linguaggio, utilizzi a cuor leggero, sbagliando, lo sottolineo, sbagliando, lo ribadisco, sbagliando questo epiteto, senza rendersi conto della gravità, e questo non giustifica. Chiaro. Però io penso molto di più questo, per quello che mi hanno raccontato il personaggio Sarri, che tutto mi sembra meno che un leader del Ku Klux Klan, sì. Me l'hanno descritto esattamente come il contrario, me l'hanno descritto come una persona progressista, di idee assolutamente molto sociali, quindi faccio fatica a immaginare che è omofobo. Ha detto un vizio di inesperienza, se vogliamo, un vizio di inesperienza, perché un'enorme stronzata. Un allenatore un po' più sgamato magari non avrebbe reagito in quel modo, può anche essere questo. Marco, provincia di Firenze. Sì, io buonasera, prima di tutto a tutti. Quello che volevo dire io è che do una giustificazione a Sarri e una bacchettata sempre a Sarri. La giustificazione è che qui a Firenze purtroppo l'offesa è, non dico fosse già neoraria, ci salutiamo offendendoci e molto probabilmente il peso che diamo a questa offesa è molto minore rispetto, certo, a tutti gli altri italiani. Seconda cosa è che ha ragione Sarri, che le cose rimangono in campo, secondo me sbagliato, però se uno c'è un'abitudine è difficile poi pensare di uscire da questa abitudine, perché molto probabilmente Mancini quando era in campo non mi sembra fosse uno stinco di santo, quindi qualche cosa sarà scappata anche a lui, e se lui le faceva rimanere in campo all'epoca deve farle rimanere in campo anche adesso. La bacchettata è questa, è che prima o poi bisogna cambiare, sia come italiani che come sportivi. Quindi se il primo è dovere essere punito, deve essere Sarri, sarà Sarri. Da domani dobbiamo cambiare tutti. Basta fede, il rispetto dell'avversario. Ma purtroppo queste cose non succedono mai in Italia, perché come dicevano le persone precedenti a me, c'è uno sempre peggio a me, c'è sempre una giustificazione. E prima non l'hanno fatto e deve rimanere in campo, e c'è quello che ha fatto peggio di me. Ma se dobbiamo cambiare, punto di partenza dobbiamo darlo. Intervento stracondivisibile. Bravo. Secondo me quello che io temo è che ci sarà adesso per un mese grande attenzione a tutti i labiali di tutti i giocatori, tutte le cose si diranno, e poi, come succede in questi casi, cadrà l'attenzione e se ne parlerà molto meno. Se questa, guardate, io colgo veramente questo aspetto positivo, cioè questa deve diventare l'occasione per riflettere, per ribadire una volta di più il fatto che insultare una persona per la propria inclinazione sessuale è una porcata ed è una cosa che può far molto male alla persona in questione e a tutte le persone che hanno vissuto questo tipo di discriminazione, esattamente come dire Napoli colera o altre beceraggini e stronzate del genere è una discriminazione che può far male alle persone che non hanno nessuna... Quindi se Mancini è rimasto scioccato, colpito, sconvolto, eccetera, questo possiamo ammetterlo, accettarlo. E dobbiamo davvero farlo diventare serenamente, secondo me, e senza doppi fini, un'occasione per crescere da questo punto di vista. Poi ripeto, conoscendo un po' Sarri, mi sembra strano che lui sia omofobo, mi sembra proprio molto strano, ecco, mi sembra anzi che sia una persona di vedute molto aperte da questo punto di vista, e che quindi secondo me potrebbe essere inciampato in quello che ci diceva l'ascoltatore toscano, però è inciampato e oggi deve pagare le conseguenze. Questo è sacrosanto, dunque dobbiamo fermarci per rigiare. Io sto, tu stai, io non mollo. Io rimango. Guarda che poi mi devi raccontare di Zenga. Telefonata con Zenga, poi arriverà anche Benazzo che invece ci dice del Milan dei thailandesi. Anche perché sono, beh, non lo diciamo, ore decisive. No, però insomma pare che ci siano aggiornamenti, ci sono, è arrivato qui B. Qualcosa succede. B si è incontrato con B. Qualcosa si adesso muove. Vedranno C. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? I consigli di Radio 24 venerdì 22 gennaio a Cuore e Denari dalle 10.30 e giovedì 28 gennaio nello speciale scuola. Quale scelta per i nostri figli dalle 21? Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Senta, scusi, è entrato adesso uno che... Sti fracioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continua a suonare. Non sono fracione, non mi chiamo fri-fri, sono commissario e ti faccio un culo così. Lino Banfi, questo spettacolo, questo, spettacolo, questo brano spettacolo. Cinematografico lo conosco. Perché tutti. Poi è questo, capisci? È questo, cioè il tipo di contesto, di background culturale di molte persone, ma anche di noi, cioè ci siamo cresciuti con tutta questa roba qui. Poi è ovvio che quando si è davanti a milioni di telespettatori, a 60.000 persone, fai l'allenatore, sei un educatore, devi essere un esempio, le cose sono un po' diverse. Buonasera, buongiorno Bignazzo. Eccoci, buon pomeriggio. Bignazzo, come la pensi su questa questione Mancini-Sarri? Beh, grande tristezza per quello che è accaduto e per tutto questo velam che sta montando. Sinceramente io cercherei di scindere la questione dallo scontro Napoli-Inter. Assolutamente. Cioè, qui abbiamo due professionisti, Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Sarri ha commesso un gravissimo errore, ha sbagliato, gli è partita la brocca, ha usato espressioni ingiuriose nei confronti di Mancini in campo, davanti al quarto uomo, ed è giusto quindi che sia sanzionato e che magari Napoli gli applichi anche una multa, perché ha creato un danno d'immagine al Napoli. sempre per in quest'ottica. Ritengo però abbastanza grave poi il comportamento di un altro professionista come Roberto Mancini, che è stato indubbiamente offeso, però ha ricevuto delle scuse, e quindi personalmente io non sarei poi andato dopo a mente lucida davanti alle telecamere, ma non per questioni di complotto e mettere pressione a Napoli, queste sono stronzate, semplicemente perché io credo che abbia poi messo alla berlina, dando del razzista Sarri, che ha solo usato un'espressione sbagliata, perché non credo che Sarri sia omofobo o razzista, lo ha messo, lo ha indicato alla pubblica piazza, una macchia che secondo me Sarri non si toglierà più, danneggiando un collega che gli aveva fatto le scuse. E quindi quella roba lì, io al posto di Mancini, proprio perché lui è stato allenatore a altissimi livelli, giocatore a altissimo livello, è un signore, me la sarei evitata, tutto qui. Ma da tifoso del Napoli pensi che ci sarà un contraccolpo? Sinceramente no, se non in termini positivi, perché la squadra credo che si compatta. Di solito, sai, la prima reazione quando ti senti attaccato dall'esterno è quello di compattare. Tu sei un napoletano ottimista, invece c'è De Luca che è un napoletano pessimista. Lo sappiamo che è un napoletano di Locarno, un napoletano svizzero. Credi anche scolare, che, quindi non credi che Sarri sia inciampato su un difetto di esperienza a questi livelli? No, questo assolutamente. E dall'altro lato non credi che Mancini, ripeto, faccio il cinico, non credi che Mancini abbia utilizzato, e non so che in questo contesto è una parolaccia, ripeto, questa situazione per altri fini? Sinceramente no, credo che, no. Che Sarri abbia commesso un errore legato al fatto che la pressione era tanta, che in quel momento c'era stata un'azione, quella di Mertens, poteva essere rigore, non rigore, insomma non ma anche conta il momento questo. Magari, Sì, era il momento, la pressione, ma il momento ha subito del la Napoli, insomma. Esattamente. Si è parlato tanto di pressione sul Napoli, di pressione sulla Juventus. Credo che sia stato questo scudetto. L'errore di Sarri, non aver avuto la possibilità. Puoi avere anche avere 60 anni, ma se non stai a certi livelli e ci arrivi, devi pagare lo scotto. E lui, ripeto, ha fatto un errore gravissimo che gli macchierà la carriera, l'immagine per lungo tempo. Sul complotto, insomma, complotto, sembra una follia il complotto, dai. Ci sono un po' di commenti, c'è il nostro mitico Non Leggerlo, grande blogger straordinario, che ci dice: le scuse di Sarri però arrivano solo nel momento in cui Mancini va a cercarlo furioso negli spogliatoi, da quello che si è capito. Poi ci dicono che sono felice di essere appassionato di rugby dove queste cose non succedono. Nigel Owens è omosessuale dichiarato. No, non è un problema di inesperienza, è un vizio di educazione, ci scrive Federico. Probabilmente anche questo, cioè è anche giusto che, insomma, che stia attento il Napoli a gestire questa cosa. E per quello ho detto che anche la società dovrebbe magari multare Sarri per il danno d'immagine che ha subito. Però pensare che Sarri, ripeto, sia ontologicamente un razzista e un omofobo mi sembra troppo. Ha sbagliato, sì. Ed è di questo parere anche Andrea da Pisa, che concorda con l'ascoltatore fiorentino di prima: quella parola fa parte del nostro linguaggio, ce ne sono anche di peggiori. Sarri ci è cascato mani e piedi come un pivello, Mancini ci sguazza perché è furbo, quello che serve è uniformità di giudizio ed equilibrio, ci scrive Max. Ci chiedono: ma Mancini è omosessuale? Mi pare di aver capito da lui stesso che lo sia. Se è così, Sarri ha detto premeditatamente quelle cose, questo sì che è grave. Io francamente non lo so. Mi interessa, l'aspetto anche è interessante, nel senso che se fosse un'accusa rivolta a una persona per denigrarla, per toccare un tasto, sarebbe enormemente più grave. In quel certo. caso ci sono i tribunali civili, oltre che la giustizia sportiva. Chiaramente però entriamo, che è un po' quello che dice Mirko, avrebbe potuto dargli il testa di perché proprio quelle parole, a mio parere, non sono state solo estemporanee. Qui insomma c'è chi pensa che ci sia della malizia, questo però non possiamo saperlo, possiamo lasciarvi il vostro pensiero e i vostri sospetti se volete. Roberto Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono interista, quindi potrei non essere la persona più imparziale del mondo, però ho sentito l'intervento di Auriemma e di l'ultimo ospite che avete, Marco Beninazzo, lui. Non sono d'accordo con più o meno nessuno dei due, aprendo purtroppo la parentesi sulla partita perché poi è il contorno a quello che è diventato più importante. Non sono d'accordo con Auriemma quando dice che l'Inter non ha fatto granché nel primo tempo, perché è vero che non ha tirato in porta, però poi il Napoli ha fatto un paio di tiri veri, perché gli altri erano dalla tre quarti. Se non l'Inter ha fatto un'impresa ieri sera, ragazzi, sì. Punto. Esatto, comunque ha fatto anche delle buone azioni, un'eccellente partita. Che poi magari non si sono tradotte in occasioni da gol, però comunque io ho visto begli scambi. Sì, non c'è dubbio. Detto ciò, passando alla parte successiva, non vedo come si possa dire che le cose che succedono nel calcio debbano rimanere nel calcio, quando poi Suarez dà del Negro a Evra viene squalificato per 8 giornate. Se uno bestemmia, avuto nella prova TV, lo squalificano. Cori territoriali, chiusa la curva. E allora perché solo con l'omosessualità? Sì, tu sai che la, quelli che sono stati puniti, che tu giustamente hai citato, sono una minima parte di quelli che succedono. Qui è un po' come quando, secondo me, due persone litigano di brutto e si dicono nell'adrenalina, nella rabbia del momento, cosa delle che cose, pensano, cosa che nemmeno pensano. Insomma, è questa la situazione. È la situazione. Io una volta ho insultato mio padre, non gli voglio un bene dell'anima, ma perché ero incazzato in quel momento lì. Cioè, se estrapoliamo la frase, se estrapoliamo la parola, ma questo riguarda mille situazioni della vita, prendiamo quella parola lì e la gettiamo poi in pasto a un'etichetta, a una definizione, creiamo un mostro. Per cui Sarri adesso è un mostro omofobo. Fino a ieri era un bravo signor, bravo, un era simpatico, simpatico progressista di idee liberali, quasi comunista, diciamolo, perché questo era fino alle 20:45 di sera. Come immagini, da oggi è diventato il leader del Ku Klux Klan. Questo mi fa un po' ridere. Detto questo, la frase. Quindi sei d'accordo con Belinazzo, Pierluigi? No, io non io cioè, sono del, cioè, allora, tu dici che io dico il comportamento di Mancini, che è andato lì e ha comunque io dico che è un malcostume che tutti dovremmo in quest'epoca qui, e soprattutto le persone che hanno un ruolo pubblico, stare molto attenti al linguaggio, a quello che dicono, perché può capitare a me, magari quella cosa non mi capita, però mi può capitare di dire un'altra cosa, cioè può capitare a tutti, capito? Di dire una cosa in preda alla rabbia di un momento, che non corrisponde a quello che realmente pensi, alla persona che sei, al tipo di stile di vita che hai. Cioè, se, ripeto, se lui avesse la tessera del partito, chi è che ce l'ha con gli omosessuali? Un sacco di gente, purtroppo, nel mondo ce l'ha con gli omosessuali. Se lui fosse un attivista che da sempre ha questo genere di idee, è un conto. Se lui è invece un signore che è nato in Toscana, dove è abituato a fare le battute, quelle becco, quelle fe, e fa questo errore qui, è grave, gravissimo, perché non si scherza su queste cose, ma secondo però me è un po' diverso. La condanna a morte sportiva è un po' diverso. Perché no, aggiungo soltanto per rispondere all'ascoltatore, condivido la sua osservazione, io non sono di quelli che dice per forza le cose di campo sono le cose di campo, questo non è uno sport per signorini, queste sono baggianate, per restare in Toscana. Dico che quell'offesa è rimasta sul campo, non è stata portata dalle telecamere fuori, quindi non è stato chiesto a Mancini, le ha detto qualcosa, le ha detto Frocio. Mancini lo ha detto, Mancini poteva anche dire sono stato espulso perché il signor Sarri mi ha offeso moltissimo, io ho reagito, sono stato espulso per una cosa che se voi chiederemo a quattro occhi, oppure se volete chiedetela a lui e se lo so vuole dire. Io mi sarei comportato in questo modo, al di là dell'essere napoletano, tifoso del Napoli, questa è la mia idea. Ma ragazzi, a prescindere, c'entra zero. Cerchiamo di veramente di utilizzare questa cosa spiacevole che è capitata come un'occasione di crescita. Io sono dell'idea che ci sia un problema di linguaggio, che il discorso che avevo fatto mille volte parlando di Tavecchio, la madre delle gaffe di Tavecchio è quella di tipo Ba, perché è una cosa che veramente ci vuole della fantasia a pensarla, immaginarla, bisogna essere veramente sprovveduti per dirla in un contesto di un discorso pubblico. Quella è la cosa più grave. Ma una delle cose gravi, secondo me, di Tavecchio dal punto di vista della comunicazione è che è un uomo anziano, abituato a un'epoca nella quale le parole si usavano con una leggerezza che oggi non è più consentita. Soprattutto in chiave pubblica. Perché non dimentichiamo mai. Ragazzi, vent'anni fa, correggetemi se sbaglio. Si diceva negro, pubblico e privato, si diceva negro e non si diceva nero, lo si diceva senza voler offendere, era quella la parola utilizzata. Oggi mille volte ribadiamo e lo diciamo col massimo dell'attenzione che quella parola lì ci fa orrore e bisogna usare un'altra espressione. Il famoso rapporto con i diversamente abili, che fino a qualche anno fa erano disabili, vent'anni fa si diceva handicappati, diciamo, ma lo si diceva senza offendere nessuno. Allora non diventiamo, secondo me, vittime, cioè non cadiamo nel politicamente corretto che chiude il giudizio, mette la croce addosso a uno perché ha fatto una cazzata e non risolve il problema. Parliamo del problema, perché il problema delle discriminazioni agli omosessuali è un problema enorme, gravissimo, che deve essere affrontato, risolto, e bisogna stare assolutamente attenti e incentivare le persone e sensibilizzare su questa cosa qui. E se può essere utile la gaffe di ieri, usiamola. affinché però sia utile, non affinché per coprirci la coscienza e neanche per crocifiggere, crocifiggere in maniera definitiva chi l'ha commesso. No, per finire con la cosa che tanto il razzista è Sarri, sì, l'omofobo è Sarri e va tutto bene. No. Perché non è così. I diritti degli omosessuali sono una cosa estremamente più importante e il problema è estremamente più grave, no, più profondo, comunque da poterlo chiudere così. Aspettiamo anche ulteriori puntate, ulteriori repliche, perché non credo che anche sul fronte del Napoli cali il silenzio su questo, sì, su questo aspetto. Credo che insomma i due protagonisti, insomma Mancini e Sarri, facciano bene, insomma, come dire, dopo la notte passata magari a dire qualcosa e a rasserenare. Questo lo vedremo, prima. Al momento non ci sono novità. Novità invece, mi dici, Marco Bellinazzo, sul fronte Milan, Mr. B che è arrivato? Si è chiuso anche l'incontro di questa mattina. Sì. Il quadro e la trattativa resta quello che era, 48%, 480 milioni, passaggio poi in borsa quando le condizioni lo permetteranno, quando il Milan perderà di meno e quando tornerà in Champions. Passi avanti importanti, c'è un clima molto positivo, così mi riferiscono chi, diciamo, dalle sedi in cui stamattina si è un po' discusso tra consulenti dei prossimi passaggi. È chiaro che ora bisognerà fissare le tappe molto strette per non perdere un altro anno, nel senso che gennaio è andato, calciomercato si fa quel che si può, l'anno prossimo bisogna, quindi si però sono rivisti dopo tanto tempo e si sono, diciamo, detti in sostanza va bene, andiamo avanti, siamo d'accordo. Andiamo avanti perché ci sono i soldi, perché la compagine dei soci è questa, perché ci sono stati tanti problemi nel mettere assieme i soci e soprattutto nel tenere in piedi quello che è l'equilibrio politico a Pechino. Mr. B ha avuto queste difficoltà sembrano ora risolte, e il Milan ha voluto vederci chiaro, la Fininvest soprattutto, quindi si dovrà ora andare avanti per non perdere magari anche delle alternative che si sono profilate. Le prossime puntate non sono state fissate? Al momento non è ancora noto, se immagino di sì, che l'obiettivo era quello di fissare delle tappe, quindi immagino che siano state fissate internamente, non sono ancora note, le conosceremo, insomma, tra un po'. C'è un aggiornamento, se volete, perché ricorderete quella campagna alla quale anch'io del mio piccolo ho aderito, che erano i lacci contro l'omofobia, sì, alcuni calciatori, sì, come Moscardelli, come Nainggolan, sì, sì, poi c'è anche uno sponsor che è una società di scommesse, quindi non citiamo, però insomma è una cosa che era stata fatta l'anno scorso e adesso praticamente hanno proposto a Sarri di indossare questi lacci in occasione di Samp Napoli, che è la prossima partita di campionato, per ribadire che non è omofobo. Vi do questo ulteriore aggiornamento, però insomma tutto quello che può essere utile per concentrarci sulla sostanza del problema, che è il fatto che ancora oggi in un paese come il nostro, che più o meno insomma ci piace pure con tutti i suoi difetti e che mediamente consideriamo civile, ci possono essere delle persone che vengono discriminate per le proprie inclinazioni sessuali di qualsiasi tipo, o per la propria origine o per il colore della propria pelle. Questo è il tema. Non è chiuderla con un'etichetta, prego. Invece, prima di tornare agli ascoltatori, che sono tantissimi, Pasquale, Roberto, Andrei, prossimi tre, mi dici di quella telefonata con Zenga? No, ma è stato molto carino, perché poi ieri, insomma, la storia è questa, no? La sapete, Cassano ha detto... Riassumiamo. Gli ho chiesto che differenza c'è fra Montella e Zenga, dice c'è la stessa differenza che c'è fra me e te a giocare a pallone. Allora la cosa poi è arrivata a Zenga, che gli ha risposto dicendo: ma in effetti io non ho allenato Cassano, ho allenato Pardo, considerato, quindi ormai, diciamo, lo stereotipo dell'uomo grasso, nonostante questa dieta enorme che sto facendo, 6 kg, Bellinazzo, anzi, si vedono i risultati, grande. Dillo con più, dillo però con più enfasi, assolutamente più spontaneo. No, non l'ho detto in maniera spontanea. Devo dire che andiamo a vincere anche Bellinazzo. Dieta di Higuain, quella con i frutti di mare, esatto. Quella? Ho tolto la pasta, è la cosa che mi piace di più al frutti mondo. Di mare senza la pasta, secondo me, proprio, cioè, potrei, però c'è poco da fare. E quindi ieri ho avuto una bellissima conversazione con Zenga. Poi c'è stato ieri sera un altro tweet, però credo più di Carolina Marcialis che di Antonio, che non è che ne sapesse molto. Insomma, io credo che alla fine certamente il feeling non è sbocciato, però insomma, secondo me l'allenatore, l'ex allenatore della Samp l'ha chiusa con grande ironia, e quindi insomma io gli dico pubblicamente, gli ho detto ieri, che sono disponibile a allenarmi con lui, magari magari perdo anche qualche altro chilo. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, a me hanno insegnato che il pesce puzza dalla testa. Come prima accennava Pardo, quando abbiamo un leader di un'organizzazione che si esprime insultando gente di colore o addirittura il sesso femminile, quanto riguarda poi anche il suo entourage, è chiaro che poi vengono accettati come normalità, tra virgolette, certe espressioni. E la cosa si allarga ancora di più, a parer mio, quando in quest'Italia moralista accettiamo termini come ricchione come se fosse idiota, negro come se fosse cretino, o addirittura, usiamo un termine più leggero, baldracca come se fosse una donna poco simpatica, facile. Ecco. Sì, ho capito. Una stronza, ecco, scusate il termine. No, questo tema è realtà, ecco, scusa, finisco perché certo. Sennò poi mi perdo. Solamente per dire che poi alla fine, in realtà, le prime accuse più gravi vanno a intaccare una forma razzista perché vengono inserite come una identificazione sociale di quella persona, mentre le seconde riguardano l'individuo e quindi magari anche criticabile. E purtroppo noi facciamo questa mistura che io trovo veramente volgare e parecchio grave. Diciamo che dovremmo un po' tutti ripulire il nostro linguaggio. Ripulire il nostro linguaggio, questo certamente. Assolutamente, ma il tema è questo, ragazzi. Però, il tema è che sui campi di calcio e non solo, anche nella vita quotidiana delle persone, sono stati usati per tanti anni degli epiteti che se uno ci riflette, ci ragiona sulla sofferenza che la discriminazione di fronte a certe persone ha portato, non userebbe. Cioè, se ci ragiona, non lo usa. E non fa la confusione di cui poi parlava l'ascoltatore. Poi il resto sta all'educazione o meno delle persone. Questo è tutto condivisibile. E non voglio dimenticare, però, mai di discriminare il piano pubblico da quello privato. Perché per chi ricopre certe cariche, per chi ricopre certi ruoli, l'abbiamo detto tante volte per Luigi, la forma diventa sostanza. Non è una banalità questa. Non è una banalità. Pasquale, Vicenza. Sì. Eccomi. Dica. Buongiorno. Proprio allacciandomi a quello che stavi dicendo tu, Genta, scusami se ti do tu. Ma vai tranquillo, è un piacere. Il privato, nel senso, penso che chiunque, a parte che secondo me si sta crocifiggendo Sarri senza motivo, perché comunque è vero che è una persona pubblica, ma è anche vero che comunque non è che l'ha fatto amplificata la cosa. Cioè, lui l'ha detto a Mancini, poi è Mancini che ha detto, se no nessuno sapeva niente di questo. Primo. Secondo, chiunque, penso, anche andando in giro in macchina, quante se ne sentono di gente che fanno tanti muralisti, poi andando in giro in macchina non sanno fare altro che dire a quella, vede la tipa che sbaglia a guidare la insulta. Ho capito dove vuole arrivare. Cioè, si sta facendo tanto muralismo per niente, anche perché, soprattutto Mancini, che è quello che, come avete detto all'inizio della trasmissione, che io seguo Pippo, Mancini è quello che ha detto, quando ci ha detto a quel giocatore di colore negro di merda, Viera, ecco, lui ha detto quello che gli succede in campo rimane in campo, poi dopo 9 anni caso è lui che butta tutto. Io credo che però uno abbia anche il diritto di maturare, di cambiare idea, di cambiare opinione. Sì, oppure possa anche avere il diritto, se capire si sente che ha insultato, di reagire e di dirlo. Io non, ripeto, non ci vedo il calcolo, non ci vedo il ragionamento. Non penso che Mancini abbia fatto questa cosa con il business plan della stagione per fare un danno. Però certamente ha fatto una cosa che non è usuale. Ha fatto una cosa che non è usuale dopo una cosa grave che è capitata, e ha fatto una cosa che non è usuale. Su questo non ci sono dubbi. Tapiro d'oro per Maurizio Sarri, consegnato direttamente da Staffelli al centro tecnico di Castelvolturno, centro di allenamento di Castelvolturno. Con l'occasione, il tecnico ha ribadito le sue scuse e precisato di aver avuto in passato amici omosessuali deceduti recentemente. Staffelli, oltre che un amico, è straordinario perché secondo me in qualche modo ha una funzione anche terapeutica, nel senso che proprio perché in questo momento Sarri è diventato improvvisamente, da un allenatore che si è fatto da sé progressista, è diventato improvvisamente un leader uomo nero, omofobo, Staffelli secondo me gli avrà dato, adesso non l'ho visto, lo vedremo stasera, ma insomma gli avrà dato la possibilità quantomeno di argomentare, quantomeno di spiegare il suo punto di vista, che poi è sempre importante nella vita. Poi se uno vuole rimanere legato alla definizione, alla battuta, se uno alla fine non accetta le scuse, non accetta le scuse, secondo me allora a quel punto le cose già cambiano. Però a una persona che viene messa sulla gogna in questo modo deve essere concessa la possibilità almeno di spiegare che cosa è successo, premesso che quello che è successo è grave. Sicuro, Pierluigi. Un'ultima cosa con Marco Berinazzi invece, poi chiedo scusa a Fiorenzo, provincia di Venezia, non riusciamo a parlare con lui perché stiamo chiudendo, ma naturalmente domani torniamo, dopo le 14 tutti convocati. Volevo chiederti in un minuto invece la storia di Luis Adriano con l'elastico, che è andato dai ricchissimi cinesi, è arrivato là e adesso sta tornando indietro. Uno dei pochi cavalli di ritorno. Beh, calcio cinese l'abbiamo raccontato spesso. No, io credo che sia più che altro un problema legato a quanto lui si aspettasse di avere o a determinate condizioni contrattuali che evidentemente gli erano state promesse e che non vengono rispettate. Non credo che sia un problema di soldi, visto le somme che danno a Guarin, visto le somme che erano pronte a dare anche al Milan. Tra l'altro questo club, il Jiangsu, credo che si pronunci in questo modo, è stato da poco comprato da una società di e-commerce partecipata anche da Alibaba, quindi i soldi non sono il problema. Credo che sia proprio una questione di accordo mancato, di promesse fatte a Luis Adriano, al suo entourage, e poi non rispettate. Pare che non volessero mettere a contratto la somma, cioè scrivere a contratto la somma che gli avevano promesso. Comunque bisognerebbe capire. In ogni caso, per il Milan è un bel danno, vediamo, perché avrebbero fatto comodo quei soldi, posto che il mercato viene fatto in autofinanziamento a gennaio. Sì. In questo momento la cosa più bella che possa succedere a una società di calcio in Italia è avere un tuo giocatore non proprio al centro del villaggio che riceve un'offerta, che riceve un'offerta di quel tipo lì, facendo cioè quello, che 6 milioni l'Inter di euro, sta pregando per Guarin, la Roma per Gervinho, anche se poi Gervinho in realtà nella prima parte della stagione sarà importante, il Milan per Luis Adriano. Ciao ragazzi, ci vediamo. Posso ringraziare Up Above e Francesco Tupputi, che praticamente in contemporanea, uno dall'Inter e uno dal Napoli, hanno scritto una cosa molto bella, quindi a dimostrazione del fatto che questa vicenda qui, di cui oggi abbiamo parlato praticamente interamente, dobbiamo viverla, secondo me, se vogliamo che sia in qualche modo utile, senza la lente nerazzurra o solo azzurra. Senza lenti deformanti. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bindi in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. È finita! È finita!